Italia in controluce. Sono le 13, 32 minuti e 37 secondi, vi parla Daniele Biacchiesi, questa è Italia in controluce, sono due edizioni quotidiane che raccontano l'Italia. La Procura di Roma prosegue l'inchiesta sulla morte di quattro bambini rom in un campo a Roma le scorse settimane. Codacons e Luigi Manconi avevano denunciato il sindaco Alemanno. Dunque un rapporto tra rom e sinti e la vita delle nostre città, che non è cosa semplice, significa integrare laddove è possibile culture differenti, modi di vita opposti. Qual è la situazione a Roma dopo la morte dei quattro bimbi rom in un campo? Andrea Viali ha fatto una ricognizione per Italia in controluce. Secondo l'ultimo censimento ufficiale sarebbero poco più di 7.000. Stando invece alle stime di alcune associazioni, i rom e i sinti che vivono a Roma in realtà sarebbero molti di più. Di loro nella capitale si è tornato a parlare all'inizio di febbraio, dopo la morte di quattro bambini nell'incendio della loro baracca in un piccolo insediamento abusivo sulla via Appia, uno dei tanti sorti in città negli ultimi mesi, un fenomeno che per alcuni rappresenta una nuova emergenza. Non la pensano così però molte delle associazioni di volontariato che ogni giorno si confrontano con queste realtà. Ragionare in termini emergenziali è un errore, dice anche Paolo Ciani, responsabile delle attività con Rom e Sinti della comunità di Sant'Egidio. Dopo aver parlato molto negli ultimi anni dei censimenti, ora la popolazione presente a Roma è abbastanza nota a tutti. Gli stessi bambini morti, poveretti, erano stati più volte censiti. Il problema è iniziare a dare delle risposte. Per esempio, noi siamo colpiti del fatto che molti bambini censiti in questi anni nei campi ancora non vanno a scuola. E questo è un problema molto serio, perché il discorso e i progetti di scolarizzazione riguardano per il momento soltanto i campi e i villaggi attrezzati. Questo, per esempio, è una delle carenze, a nostro avviso, perché poi se non investiamo sui bambini non pensiamo al futuro. Accantonata in pochi giorni l'idea delle tendopoli, il sindaco Alemanno sembra puntare ora più sulle caserme dismesse come soluzione abitativa temporanea destinata a chi oggi vive nei piccoli insediamenti abusivi. Questo in vista della realizzazione di tutti i campi attrezzati previsti dal piano nomadi del Campidoglio, un piano la cui attuazione procede però a rilento. Tende, caserme, ma anche gli stessi campi autorizzati non possono essere comunque soluzioni definitive, sottolinea ancora Ciani. Noi stimiamo che in totale questa emergenza abitativa potrebbe riguardare circa 7.000-7.500 rom e sinti, e una città di 3 milioni di abitanti può gradualmente farsene carico. Alla fine degli anni 60 a Roma c'erano 70.000 baraccati, non 7.000, 70.000, tutti cittadini italiani. Negli anni sono stati inseriti in piani casa. È chiaro che se noi per sempre continuiamo a parlare di emergenza di anno in anno e di campi nomadi, questo non lo supereremo mai. Ma penso che un minimo di lungimiranza, mettendo da parte un discorso ideologico e purtroppo un discorso culturale, perché in Italia da troppo tempo quando si parla di rom e sinti sembra che si parlasse dei peggiori rifiuti tossici, se noi mettiamo da parte un discorso demagogico su questo, si può mettere in campo una politica seria che in pochi anni pensi a un inserimento abitativo di queste persone. E a proposito di questione abitativa, un approccio originale arriva dal presidente nazionale dell'Opera Nomadi, Massimo Converso. Noi abbiamo chiesto con molta chiarezza di fissare un'indagine conoscitiva sul patrimonio pubblico e su quello privato non utilizzato e passare una fase di autocostruzione come quella realizzata in modo vincente a Padova per i fabbricati pubblici, no? Case cantoniere, caserme, ma non nel territorio della città di Roma. Ci si accanisce, e questa è conseguenza del piano Forutelli e piano Veltroni, che sono identici a quello Alemanno. Ma nel resto della regione Lazio ci sono decine e decine, anzi centinaia di centri storici abbandonati in cui le case private potrebbero essere utilizzate. D'altro canto gli stessi rom balcanici sono stati loro a indicarci questa linea, in quanto negli ultimi 4-5 anni, gli anni degli sgomberi di massa attuati in modo trasversale, e loro hanno abbandonato migliaia e migliaia i campi e si sono stabiliti nei centri storici, comunque in abitazioni, diciamo, non nuove, che hanno ristrutturato e poi pagano l'affitto ai proprietari, insomma, che sono, ne sono ben contenti, in quanto sono case spesso inabitabili, che i rom rendono abitabili, in quanto soprattutto i rom dei bambini, bravi muratori, bravi elettricisti e falegnami e quando occorre. Per arrivare ad una vera integrazione, la questione fondamentale resta però il lavoro, continua ancora Converso, che anche qui suggerisce una soluzione originale. Laddove i rom, sinti e camminanti, hanno lavoro, non sussiste il problema della casa, a parte una percentuale non piccola di furbi, per cui i campi sono occasione per accumulare risorse destinate a beni non necessari. Va spiegato molto bene agli italiani, non chiediamo posti di infermieri, bidelli e posti fissi all'amministrazione pubblica, ma chiediamo di legalizzare i mestieri che già svolgono, cioè il commercio e la raccolta differenziata. Potrebbero legalizzarli con costi bassissimi e quindi consentire l'autosviluppo economico, che è al centro del problema. Italia in controluce. Pino Petruzzelli è un attore, un regista teatrale, uno scrittore, uno che ha messo in scena per esempio uno spettacolo che porta in giro da diversi anni, ormai da un paio d'anni, sui Rom. Ha pubblicato libri sui Rom come Non chiamarmi Zingaro, un viaggio suo in Italia e in Europa. Lo ha intervistato per Italia in controluce Paola Nania. È stato un giro durato 5 anni, in giro per l'Italia e per una buona parte dei paesi europei. Quanti campi nomadi ha visto in questa esperienza così lunga? Ma tanti, poi soprattutto perché la cosa curiosa è che i campi nomadi sono solo una prerogativa italiana, all'estero non esistono. Il campo nomadi così com'è, voluto da un'amministrazione, insomma, è qualcosa solo che troviamo nel nostro paese. Al resto del mondo i Rom o i Sinti vivono o in appartamenti come tutti, o se estremamente poveri in baracche, ma non in una segregazione così istituzionalizzata come il campo nomadi in Italia. Secondo lei da dove nasce allora questa peculiarità al negativo dell'Italia, che appunto è l'unica zona in cui ci sono i campi nomadi? Credo che sia un grosso equivoco, insomma, già dagli anni 70, cioè per cui gli zingari e i rom erano considerati dei nomadi. Naturalmente esiste un popolo al mondo che sia nomade geneticamente, almeno così dicevano durante il nazismo, ma oggi nessuno sogna più di dare del nomade a qualcuno geneticamente. Ci sono dei motivi per cui un popolo finisce per spostarsi più di magari un altro. Infatti la storia dei rom e dei sinti è molto simile a quella del popolo ebraico, però nessuno poi sogna dare del nomade invece agli ebrei. Ecco, quindi questa idea del nomadismo genetico probabilmente ha portato l'Italia a creare dei campi nomadi che poi si sono rivelati comunque dei veri e propri ghetti, delle situazioni fallimentari, perché hanno posto le basi per una segregazione, per un allontanamento dei rom e dei sinti dal resto della società italiana. Ecco, che cosa l'ha colpita in modo particolare di quelli che appunto definisce come dei ghetti? Il fatto che vengono considerati loro come persone che vivono ai margini, quando siamo noi che abbiamo posto questi campi nomadi magari ai confini con delle discariche, in situazioni davvero difficili, per cui noi vediamo solo l'effetto di ciò che abbiamo provocato, ma non sono i rom e i sinti, ecco, la causa di quello che si vede. In campi nomadi ci sono delle situazioni in cui si vive magari, insomma, 300 persone con un bagno da dividere fra tutti, per cui poi effettivamente diventa difficile poter pensare di fare la doccia tutti i giorni. È una situazione oggettivamente difficile, quindi penso che prima si riescano a eliminare i campi nomadi e più tranquilli siamo tutti, ecco. E che percezione hanno le persone che vivono nei campi nomadi di noi, cioè di quelli che secondo lei appunto li hanno poi in effetti posti ai margini? Quello che mi è sembrato di vedere è una grande paura. Loro hanno una paura estrema di noi. Infatti l'idea per cui tanti rom e sinti vogliono restare nel campo nomadi non è perché sono affezionati al campo nomadi, ma perché magari gli permette di restare tutti insieme. È un po' quello che accadeva anche agli italiani quando emigravano, perché non so, l'Italia, tutti cercavano di essere vicini, perché effettivamente ti dà un po' più di idea di protezione, di essere tranquillo, sei fra persone che ragionano più o meno nello stesso modo, anche se poi con storie completamente diverse. Lei ha parlato di paura diciamo dell'esterno, quindi della comunità che sta al di fuori, in questo caso del campo nomadi, comunque della comunità propria. Paura perché ci percepiscono come razzisti? No, paura perché sanno quello che noi pensiamo di loro, non necessariamente razzisti, comunque con una serie di pregiudizi forti nei loro confronti. Loro sanno benissimo che quando noi vediamo un rom con abbigliamento zingaresco siamo tutti con la mano al portafoglio. È chiaro che percepiscono una distanza da noi. Nel lungo viaggio che ha fatto nei campi nomadi c'è qualcosa che l'ha sorpresa particolarmente? L'aspetto piacevole è stato quello di trovare un mondo accogliente, meraviglioso anche nelle difficoltà. Ecco, questo devo dire sì che mi ha stupito. Vedere persone che avevano pochissimo e che erano disposte a darlo, ad offrirlo ad altri. Visto tantissimi barboni senza fissa dimora andare a mangiare a tavola con i rom, non hai niente, vieni a mangiare a casa mia. Ecco, questo forse noi con tutta la nostra cultura insomma difficilmente lo faremo. In questi ultimi, in questa povertà, c'è un'umanità straordinaria. 13:43 minuti e 37 secondi con la testimonianza di Pino Petruzzelli, attore, regista teatrale, scrittore, termina la seconda edizione Italia in Controluce in diretta. Cercateci su Facebook, naturalmente su Twitter, il nostro blog su radio24.it, oppure comunicate con noi via mail controluce@radio24.it. Torniamo domani alle 6:30 con un reportage di Andrea Ferro a 10 anni dai fatti di Genova del G8.